Investire informati. E per questo appuntamento è venuto a trovarci per la prima volta qui negli studi di Radio 24 Edoardo Fontanarava, direttore sviluppo e gestione prodotti di Banca Mediolanum. Benvenuto. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Eccoci qua, allora. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Naturalmente vi anticipo già che potete come sempre interagire con noi per condividere le vostre preoccupazioni dal punto di vista finanziario, come viaggia in questo momento il vostro risparmio, che scelta avete fatto di recente, le state riconsiderando, insomma questo è anche un momento forse giusto per poterlo fare, visto che le condizioni di mercato sono naturalmente sempre un po' ballerine, quindi magari questo è il momento giusto per fare una chiacchierata con il nostro consulente e capire se da qui a Natale possiamo riconsiderare le scelte magari fatte nei mesi passati. Il nostro paese, lo sappiamo bene, si caratterizza per una forte propensione al risparmio da parte delle famiglie, che risparmiano sì, ma non con poco sacrificio, no? Nicoletta, quante volte ne parliamo anche da questi microfoni, e ogni settimana l'occasione per fare un punto della situazione sull'andamento dei mercati finanziari, complicati, a volte persino indecifrabili, sicuramente poco prevedibili. Analizziamo l'andamento dei mercati finanziari per capire come questi condizionano il nostro risparmio, il nostro investimento, e quindi di conseguenza proviamo anche a capire se ci sono le condizioni per proteggere il nostro capitale faticosamente investito. Oggi vi proponiamo una riflessione su tre punti che analizziamo molto spesso, ma a quanto pare, siccome sono delle condizioni a questo punto strutturali, vale la pena ritornare a fare un ragionamento molto attento sul tema scenario tassi di interesse sempre più azzerati per le politiche appunto adottate dalle banche centrali. Ma alla luce di questa condizione, che soluzioni di risparmio ci sono in questo momento da prendere in considerazione, soprattutto da chi farsi accompagnare in queste scelte? Prima di partire con la nostra chiacchierata con Edoardo Fontanarava, un'informazione di servizio. Nicoletta, prendi carta e penna. Sono già pronta, ce l'ho. E lo dico anche a Edoardo Fontanarava, magari gli chiedo anche se vuol fare l'ospite di quell'evento che si svolgerà qui al Sole 24 Ore il 18 novembre alle 18, quindi è anche facile da ricordare. Abbiamo il nostro Investire Informati Live. Quindi sapete che sono passati quasi 2 anni dall'appuntamento del giovedì Investire Informati qui a Radio 24, qui a Cuore Denari. Abbiamo dato tanti, speriamo utili, sicuramente pratici consigli ai nostri ascoltatori, e allora sintetizzeremo un po' questo percorso fatto proprio in questo evento del 18 novembre qui al Sole 24 Ore, nell'auditorium appunto del nostro palazzo in via Monterosa 91. Potrete ascoltare dal vivo le indicazioni degli esperti che si sono avvicendati appunto in questo nostro programma. Affronteremo gli argomenti del momento: i tassi a zero, la volatilità di borsa, le norme che cambiano, i rischi e le nuove opportunità di investimento che ci sono in questo momento, insomma come dobbiamo relazionarci a queste continue sfide della finanza. Perché ve lo dico qui a Cuore Denari? Perché per poter partecipare, la manifestazione è aperta anche al pubblico indistinto, dovete andare però a prenotarvi, a compilare un format che trovate sul sito di Radio 24. Investire Informati Live, quindi lo facciamo divulgare anche su Facebook. Queste le informazioni di servizio, non ti faccio iscrivere. Semplice. Nicoletta, io ti porto. Dai, io sono un po' raccomandata, esatto. Diciamola tutta. Ci verrà a trovare dottor Fontanarava? Molto volentieri. Ottimo. Assolutamente. Vedi? Molto volentieri. Grazie. Io vengo accompagnata. Benissimo. Allora, andiamo un po' ai temi di oggi, perché abbiamo chiacchierato anche fin troppo, dobbiamo dare un po' di sostanza al nostro giovedì. L'interesse, dottor Fontanarava, è sempre quello, è concentrato su questo nuovo mondo a tassi zero. Tra l'altro oggi abbiamo proprio arrivati ieri sera tardi i risultati della nuova emissione del BTP Italia, 2 miliardi e 200 milioni di euro raccolti appunto dal Ministero dell'Economia. Oggi vedremo che cosa faranno invece gli investitori istituzionali, perché ieri si è chiusa appunto la fase dedicata a noi piccoli risparmiatori. Questa condizione di tassi zero, sulla quale non facciamo altro che ragionare, ci spiega un po' come la sta vivendo l'industria del risparmio? Come si cerca di fare educazione su un tema che fino a pochi anni fa era davvero del tutto imprevedibile? Beh, allora la condizione, che poi è lo specchio che riflette quello che è stato il BTP Italia, quindi i risultati di oggi, è una situazione che va vissuta come un cambio di paradigma in quello che è l'approccio da parte dei risparmiatori rispetto all'investimento. Se fino a qualche anno fa la pianificazione della maggior parte dei risparmiatori era una pianificazione, una composizione di tante piccole pianificazioni di breve, sfruttando quello che i tassi di interesse dei titoli di Stato garantivano, quindi potendo scegliere i BOT, i CCT e affiancarlo uno all'altro. Oggi lo scenario di tassi che stiamo affrontando, che non è uno scenario temporaneo, ma che tutti i dati e tutte le indicazioni ci chiariscono che è un qualcosa che dovremo affrontare per un periodo abbastanza lungo, impone completamente un cambiamento di quello che è l'approccio rispetto agli investimenti. Per cui l'investimento in titoli di Stato e in piccole pianificazioni di breve non è più una scelta di investimento, ma diventa una scelta di parcheggio del denaro. Se consideriamo che BTP Italia ha un rendimento dello 0,35 e l'inflazione, ancorché bassa, è salita dallo 0,2 allo 0,4, stiamo dicendo che investendo attraverso questo strumento io sto semplicemente tutelando il valore del mio denaro, ma non sto facendo qualche forma di pianificazione finanziaria rispetto ai miei obiettivi. Quindi il BTP Italia è visto come un parcheggio, un po' come fino a poco tempo fa erano i conti di deposito, no? Adesso anche quel mondo là sembra un pochino più sottotono rispetto solo a pochissimi anni fa, dottor Fontanarama. Sì, è tutto un po' collegato, ovviamente, essendo così basso il rendimento del denaro, conseguentemente anche quello che le banche, quindi i conti di deposito, sono in grado di offrire è mediamente molto basso. Ma anche in questo caso mi sento di dire che si tratta comunque di una non scelta, quindi di una scelta di parcheggio. Uh-huh. Infatti i rendimenti che offrono i conti correnti di deposito sono ancora interessanti, in alcuni casi anche più interessanti di quelli che sono i titoli di Stato, però sostanzialmente è una forma di rimandare una problematica. Allora, in questo senso la cosa fondamentale è cercare di recuperare un qualcosa che storicamente è stato importante, ma oggi diventa ancora più importante, che è il tempo. Cioè riuscire a comprendere quelle che sono le esigenze del proprio denaro e posizionarlo su un corretto orizzonte temporale. Attraverso un approccio di questo genere è possibile incominciare a guardare con un occhio diverso anche altre forme di investimento che possono essere prese in considerazione. Hai visto che mi ha dato un ottimo assist per la prossima domanda, perché proprio quello che naturalmente adesso dobbiamo così analizzare è quali alternative ci sono per il risparmiatore italiano che è ancora, come dire, quantomeno idealmente legato, affezionato al BTP e soprattutto alle sue cedole viste come reddito integrativo, ma oggi questa funzione il BTP non la svolge più e quindi il risparmiatore molto disorientato va a caccia di alternative, ma per avere alternative remunerative bisogna alzare la propensione al rischio e quindi orientarsi al mercato azionario o al debito emergente, mi viene da dire. È una sfida bella importante questa anche per la consulenza finanziaria, fare educazione su questi temi, perché molta resistenza nel risparmiatore finale c'è ancora, dottor Fontanarà. È una sfida e una responsabilità importantissima, perché se come responsabile del mercato finanziario, quindi promotori finanziari, non siamo in grado di supportare il cliente nella comprensione di quello che sta facendo e come lo sta facendo, vuol dire che allora non riusciremo a fare bene il nostro mestiere. Mi permetta solo una puntualizzazione sul tema del rendimento a breve. Molto spesso quando si guardano i tassi e i rendimenti ci si concentra sulla differenza e quindi nel momento in cui il mercato offre lo 0,3 io guardo lo 0,5 come un valore molto importante e si dimentica quello che è il valore assoluto di questo. Se io investo 10.000 euro per 8 anni per prendere il BTP Italia allo 0,35 vuol dire che sto ragionando su un importo complessivo di 280 euro. Questo è fondamentale perché aiuta a capire che se io ragiono per questi strumenti in logica di complemento di quello che è il mio reddito, devo anche essere razionale nel comprendere di quanto effettivamente lo possano essere. La ringrazio. Giusto. Per questo esempio. Grazie. Perché sono fotografie. Bravo. Che rimangono davvero incise nella testa degli ascoltatori e quindi magari rispetto a tanta teoria che dalla quale forse erroneamente qualche volta cerchiamo di far passare, poi l'aspetto pratico invece è quello assolutamente più rilevante. Ecco, partendo proprio da questo elemento, 280 euro rimanendo vincolato a 8 anni. Allora, con un orizzonte di 8 anni ci sono tante altre alternative possibili. Ci sono nei mercati finanziari in senso assoluto. Anche parlare solamente dell'azionario o del debito emergente spaventa. I mercati finanziari e gli investimenti sono molto più ampi, hanno soluzioni azionarie, obbligazionarie, debito emergente. La possibile scelta, la strategia per approcciare questi mercati sta in un unico punto, che è la diversificazione. Nel momento in cui sostanzialmente io investo per un mio progetto, attraverso un'adeguata diversificazione, di fatto riduco enormemente il rischio collegato a questi mercati. sui giornali, sulla stampa e nell'emotività dei clienti si tende a ricordare sempre il fatto che il titolo o l'azione abbia perso il 30 e il 35. Attraverso una diversificazione questi rischi si riducono tantissimo. Tornando quindi al tema del tempo, nel momento in cui io metto sul tavolo quelli che sono i miei risparmi e quelle che sono i miei obiettivi e le mie esigenze, ho la capacità in modo emotivamente molto più semplice di rendermi conto che in realtà non ho bisogno di mantenere il 100% del mio risparmio disponibile in qualsiasi momento, ma posso identificare una parte di questo importo che posso dedicare a dei progetti di più lungo periodo. E qui incomincia il viaggio, perché di un viaggio si tratta, che va portato avanti attraverso l'apporto e quindi l'assistenza di un professionista per raggiungere il mio obiettivo, che può essere la seconda casa, lo studio dei figli e quant'altro. Dico che è un viaggio perché, cercando di trasferirlo in modo semplice, è esattamente come fare un viaggio in auto. Quando io entro in autostrada e mi trovo bloccato in una coda in autostrada, emotivamente il primo istinto di ogni cliente cos'è? Uscire. Per ritrovarsi poi imbottigliato nella strada secondaria. Al contrario, nel momento in cui nel viaggio si incontrano degli ostacoli, che vuol dire uno scenario di mercato che diminuisce o quant'altro, è importante confrontarsi con il proprio consulente finanziario per comprendere quanto questo ostacolo debba essere affrontato con un intervento o semplicemente con la tranquillità di attendere che poi la coda si sblocca e quindi io posso continuare nel mio percorso. Bravo.